15.06, Radio Onda Rossa, oggi è giovedì 12 maggio e questa voce oggi è piuttosto mesta, un po' perché i miei polmoni si stanno ribellando alle troppe sigarette, ma soprattutto a causa delle pesanti sentenze pronunciate oggi contro i compagni che hanno partecipato alle manifestazioni del 1° ottobre 2011. Solidarietà va a chi si è battuto per la libertà e contro la mercificazione della vita, contro l'imbarbarimento razzista della politica istituzionale, contro tutte le repressioni oggi come ieri, sempre troppo profonda e dolorose, così come dolorosamente oggi a Ponte Garibaldi alle 5 si ricorderà Giorgiana Masi, vittima, una delle tante vittime purtroppo della violenza della polizia. Quindi vi ricordo l'appuntamento a Ponte Garibaldi alle 17, mentre a Squat, a Laurentino 38, assemblea sui processi relativi ai cortei del 1° maggio a Milano e del 24 gennaio a Cremona. Non se ne parla mai troppo e se ne parla sempre troppo poco. Seguirà una cena benefit, ricordo, presso lo Squat del Laurentino 38, via Giuliotti 8. E oggi a Tracce di Cinema è protagonista un film leggero che tratta argomenti però importanti come l'aborto e l'adozione, temi che ancora oggi in Italia vengono discussi e affrontati in modo oscurantista e reazionario. In questo film se ne parla in modo leggero, però è un buon film, è una bella commedia. Juno, film del 2007, e la colonna sonora è molto bella. E qua accanto a me, prima di iniziare a parlare del film e della colonna sonora, c'è la nostra amata Eleonora Danco, che si fa un po' di pubblicità, approfitta sempre quando viene qua. Buonasera a tutti, ciao, sono Eleonora Danco, sono felicissima di essere con Ottavia e anche con Federico e David. E siamo qui in questo studio scalcinatissimo, non so cosa ti devi sempre lamentare ti devi sempre lamentare con microfoni che voi non potete capire, però è un luogo che amo molto, veramente sono molto affezionata. No, volevo salutarvi, dirvi che tra poco, non so ancora la data, ma per chi avesse Sky Arte, tra poco ci sarà la proiezione di Incapace, il film che ho diretto, e soprattutto se amate il teatro, se pensate che il teatro può essere anche una forma di ribellione, se volete qualche dritta, iscrivetevi a questo seminario che dirigo io in collaborazione con la Minimum Fax e il Monk, che si svolgerà al Monk dal 30 maggio al 3 giugno. 5 giorni di totale immersione in un seminario molto molto molto interessante, ve lo consiglio. Senti, visto che sei qui, ti puoi prendere un impegno in diretta? Già te l'ho detto, io posso venire a fare questa performance per il 18 giugno, sabato 18 giugno. Sabato 18 giugno, non ho ancora capito chi, ai caduti, no? Ai vivi, non ai caduti. Non ai caduti. Ai vivi. No, no, che è una cosa molto bella quella che fate, sono sempre venuta. Se mi mandi la macchina, l'autista, camerino, vabbè, tutte queste cose posso anche forse catering anche. No, va bene, sicuramente vengo. Verrò Per il catering non lo so, però ti posso venire a prendere io. Vedi che bello. C'è Ottavia, e vi farò delle bellissime performance su delle poesie, che poi sugli insetti. Su tutti quelli che si sentono insetti qualche volta nella vita, nell'arco della giornata, in un momento che hanno questa sensazione di sentirsi degli insetti, potete venire. Ok, non ci anticipare troppo, quindi Eleonora Danco la diamo per sicura sabato 18 giugno, ex Nia Viscosa, Onda Rossa ormai Festa. Ormai l'ha detto. Ormai è troppo sicuri però. Ok. Grazie, buona trasmissione. Ciao, e cara, seguite sempre abbraccio. Questi ragazzi che sono bravissimi, Ottavia è una forza della natura. Grazie. Ciao Eleonora. Ciao. Grazie a te Eleonora, iniziamo con la musica, David. Bye. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you were with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. E buon pomeriggio, stiamo ascoltando, abbiamo appena ascoltato un brano della colonna sonora di Juno, che è il film di oggi. Il brano si chiama All I Want Is You, è di Barry Lewis Polisar, un musicista statunitense, fa anche musica per bambini. La colonna sonora di oggi è molto soft, quasi è neo country, rock, ma comunque molto chitarra e voce e melodie. Ci sono dei grandi gruppi, ci sono i Sonic Youth che fanno una cover dei Carpenters, i Velvet Underground, Belle Sebastian, Buddy Holly, però comunque il filo conduttore è proprio queste musiche intimiste, diciamo. Sì, sì, anche i Sonic Youth, che erano l'unico gruppo in fondo che poteva dare proprio una botta de punk e de metallo, invece niente, fanno una cover, quindi niente. E poi ci sono molti brani di Kimia Dawson, che è sempre cantante statunitense, quarantenne, che ha avuto molto successo. Comunque lei fa anche lei proprio chitarra e voce, pezzi minimali che andremo a ascoltare. Sì, Juno è proprio il tipico prodotto hollywoodiano, no? Proprio quello proprio fatto ad hoc per non scontentare nessuno, però nello stesso tempo secondo me è quello che il cinema buono deve fare, cioè quando non si hanno dei grossi nomi, perché all'epoca i protagonisti non erano dei nomi importanti, ma lo sono poi diventati, e con, anzi senza dei nomi importanti si riesce a fare un film grazie a una buona sceneggiatura, perché questo film ha un'ottima sceneggiatura, e poi vi racconteremo anche un po' di chi è, perché è una favola nella favola anche un po' la storia di questo, di come è nato questo film. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9, and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls a maid, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so bags are best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes to grab his father's root when fate passes on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservative. And he plays a song to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. E questi erano i grandi Kinks con A Well Respected Man. Dei Kinks abbiamo già parlato, mi ricordava Ottavia che li abbiamo mandati per la colonna sonora di I Love Radio Rock. Sì, anche in altri film, adesso non sì. Mi ricordo, però sì, li abbiamo suonati diverse volte. Sì, e ci piacciono. A me piace molto Lola, canzone loro. Sì, io non so se sono stati anche inseriti in altre colonne sonore di cui abbiamo già parlato, ma mi piace ricordare You Really Got Me, Sunny Afternoon, All Day and All of the Night, oltre alla Lola che ha già citato David. E sì. Hanno suonato dal 63 al 96. Quindi si sono sciolti ormai 20 anni fa. Sì, e rientravano nella sfera dei gruppi beat della British Invasion, che suonavano brani R&B e blues, però iniziarono anche a sperimentare proprio una tipologia di rock un po' più pesante rispetto al periodo, con quasi delle sonorità un po' punk. Sì, un po' punk. Beh, sì. Infatti sono definiti anche proto-punk. Sì, proto-punk. Certo, infatti. Non il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Ever say we'll part? You scold, and you were so bold. Yes, together, yeah, our love will grow old. Yeah, our love will grow old. A million miles away, please believe me, yeah, when you hear me say questo è il grande cantante morto prematuramente, stiamo parlando di Buddy Holly e il brano si chiama Dearest, e stiamo ascoltando la colonna sonora di Juno. È di Buddy Holly che si può dire che è stato uno dei primi a scrivere, produrre ed eseguire i propri brani, ha avuto un enorme successo negli anni 50, canzoni che si sentono tuttora come Peggy Sue, famosissime, e purtroppo è morto, come dicevo prima, a 22 anni, un tragico incidente aereo dove hanno perso la vita anche Richie Valens e Big Booper. Peccato, perché chissà che carriera avrebbe avuto, sicuramente avrebbe scritto un sacco di bellissime musiche anche dopo. Tra l'altro, su questo episodio dell'incidente aereo in cui hanno perso la vita questi tre giovani musicisti e il pilota, abbiamo mandato in onda una lettura di un testo creato dal collettivo letterario Terra Nullius, che ha dedicato appunto a questa vicenda un racconto di una ventina di minuti. E che potete musicato. Trovare sul sito della radio www.ondarossa.info, che ricordiamo sempre, ci sono un sacco di approfondimenti e un sacco di tutte le trasmissioni in podcast che potete risentire, anche la nostra se volete. Nell'archivio Radio Teatro. Nell'archivio Radio Teatro, sì. Juno è un film, appunto, come dicevamo, del 2007, regia di Jason Reitman, che è il figlio di quel Reitman che ha fatto Ghostbuster, esatto. E poi magari diremo anche qualcosa di lui. Non ha fatto molto, però ha fatto un altro film che secondo me è curioso, io l'ho visto e mi è piaciuto molto, sulla industria del tabacco e la produzione delle sigarette, quindi è un argomento anche che mi tocca dal vivo in questo momento di malattia e di assenza da tabacco. Beh, insomma, comunque questo soggetto che narra la storia di un adolescente che rimane incinta, ed è un argomento un po' spinoso, perché insomma un adolescente che a 16 anni rimane incinta non è una cosa proprio bella, ma insomma può succedere, ma insomma forse anche no. La sceneggiatrice, che è Diablo Cody, la racconta, la narra in un modo del tutto assente da giudizi, ed questo è molto bello. Oltre a non giudicare la protagonista, che appunto vive questa esperienza, dà un giudizio, comunque fa una fotografa tutti gli altri personaggi in modo totalmente anticonvenzionale, secondo me. Cioè anche la famiglia che la protagonista sceglierà per lasciare in adozione il bambino è totalmente sconclusionata e non funziona affatto, quindi insomma è tutto in un contraddittorio di tutto all'interno di questo film, con queste tematiche appunto importanti vengono poi affrontate in modo molto leggero da questa brava sceneggiatrice, che mi allungo un po' se posso. Vi racconto un po' di lei. Il suo vero nome è Brooke Busy Hunt, è un ex spogliarellista con questo film timbra il suo esordio cinematografico e vince anche un Oscar per la migliore sceneggiatura originale, ed è stata scoperta da uno dei produttori mentre navigava su internet e si è imbattuto nel blog di questa sceneggiatrice autrice, che si chiama Pussy Ranch, in cui relazionava in maniera semiseria delle sue avventure nel mondo dello strip. E quindi, colpito dal suo stile umoristico, questo Novik, questo produttore, ha deciso di chiamare la scrittrice per proporre la stesura dello scritto, che poi ha avuto un grande successo. Beh, insomma, proprio come dicevo prima, una favola nella favola, queste cose che tipiche americane, che in America succedono, in Italia mai. I took the Polaroid down my room. Pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you. It just makes me sad whenever I see it, 'cause I like to be gone most of the time, and you like to be home most of the time. If I stay in one place, I lose my mind. I'm a pretty impossible lady to be with. Joey never met a bike that he didn't want to ride, and I never met a Toby that I didn't like. Scotty liked all of the books that I recommended, even if he didn't, I wouldn't be offended. I had a dream that I had to drive to Madison to deliver painting. For some silly reason, I took a wrong turn and ended up in Michigan. Paul Baraboo took me to the giant tire swing, gave me a push, and he started singing. I sang along while I was swinging. The sound of our voices made us forget everything. Bike that he didn't want to ride, and I never met a Toby that I didn't like. Scotty didn't want it a bright, and I never met a toy bee that I didn't like. Scotty liked all of the books that I recommended. Scotty liked all the books that I recommended. Scotty liked all the books that I recommended. Even if he didn't, I wouldn't be a Questa era proprio Camille Donson, che ha curato appunto molti brani di questa colonna sonora, cioè della colonna sonora del film Juno, e il brano si chiama Tire Swing. Il suo sound, come vi dicevo, è proprio intimo, e chitarra, voce, quasi delle cantilene, però piace molto. Ma Belle Sebastian sono un gruppo di scozzese. Belle Sebastian? No, non è Belle Sebastian, no, è dopo? Sì, questa era proprio Camille Donson. Ah, no, no, no, proprio non lo ascoltavo, sono andata per conto mio. Vabbè, succede. Scusate. Cosa succede? Questi erano i Belle Sebastian, scozzesi, a dispetto del nome, e una band che appunto inizia a Glasgow nel 96, e doveva essere solo un progetto, invece poi hanno fatto il primo disco, addirittura è stato pubblicato solo in 1000 copie, poi invece tramite passaparola sono diventati famosissimi. e una loro caratteristica è la riluttanza a parlare con i media e a farsi fotografare. Era, perché ora invece ci stanno proprio dentro con tutte le scarpe. No, è interessante il fatto che di questo primo disco, che era Tiger Milk, che era un vinile, era stato pubblicato soltanto in 1000 copie, quindi giusto per gli amici e i parenti, e poi loro sono diventati, come dicevi tu, famosissimi, ed questo disco è diventato introvabile e venivano pagate le copie anche più di 400 sterline, e loro, per evitare che venisse fatta una mercificazione, l'hanno poi ristampato su CD. Oh, questo ci porta al nostro ospite di questa settimana, Albert Bucci. Ci sei, Albert? Ci sono, grazie, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene, voi? Bene, bene. Ci eravamo sentiti noi per il Soundscreen Film Festival, che è una tua creatura. Tra l'altro ti chiedo come è andato. Dai, è andata bene, è andata bene. Sono contento, e il prossimo anno ci ritorneremo. Sempre in primavera 2017, e a questo punto più solide basi, più ospiti, più eventi, insomma abbiamo iniziato e continueremo. Bene, bene. Visto il rapporto di questo festival, del rapporto cinema-musica, mi sembrava del tutto adeguato alla nostra trasmissione, che tratta di colonne sonore dei film, e quindi ti ho chiamato, ti ho proposto questa settimana in cui il film è Juno, con un po' di nomi conosciuti in colonna sonora, e insomma tu hai accettato, per cui ecco di qui ben volentieri ti ospitiamo. E allora raccontaci un po' qualcosa, Albert, non so cosa hai gradito, se la colonna sonora, se il film, se ti piace invece il regista un po' più in generale. Guarda, Juno è un ottimo esempio di come si dovrebbe costruire un film anche partendo dalla musica. Stavo guardando un po' le origini di questa bellissima colonna sonora. Sai da chi nasce sostanzialmente il tutto? Nasce dall'attrice Ellen Page, perché in origine Gerald Reitman, il regista, che fra l'altro non so se lo sapete, figlio di Ivan Reitman. Sì, sì, lo stavamo ricordando. Io l'avevo conosciuto per Thank You for Smoking, che ricordava prima Ottavia, un film notevole, e questo Juno poi lo ha consacrato a livello internazionale, ha vinto il Festival di Roma nel 2007. Ma sostanzialmente leggevo che la colonna sonora è nata in un dialogo tra il regista e l'attrice, proprio per dare una credibilità al personaggio di Juno, questa adolescente liceale americana, e appunto all'epoca l'attrice Ellen Page comunque non era molto più vecchia di una liceale, credo avesse 19-20 anni quando hanno girato il film, e lui proprio in conversazione con lei, quando si fa il brainstorming e quando si costruiscono i personaggi, era lì: ma che cosa ascolterebbe questo personaggio, chiede lui, e lei, Ellen Page, salta subito fuori citando i Moldy Peaches, quelli di Adam Green e Kimmy A Dozen, per intendersi, spiazzandolo un po', perché il regista aveva in mente un personaggio un pochino più trasgressivo, credo che volesse metterci più Iggy Pop e meno appunto Bella Sebastian. Però questo cosa significa? Significa che mettere una colonna sonora, mettere un tessuto musicale, non è una cosa accessoria. Sì. Proprio perché in questo caso cosa succede? Succede che andiamo a costruire il personaggio principale, Juno appunto. Gli americani poi sono fantastici, perché al contrario di noi italiani, quando è possibile il titolo dei film o dei libri coincide col personaggio protagonista. E infatti ha messo appunto una forte collaborazione con Kimmy A Dozen, ha messo Bella Sebastian, ha messo anche qualcosa come Velvet Underground, però attenzione, tutto tematizzato poi sulla storia del film, appunto una storia molto forte che fece anche scalpore, una cosa che è pro-life o contro la vita o a favore della vita, non si è mai capito, era un film su una ragazzina che fa una scelta molto forte, e proprio perché è una ragazzina, non dimentichiamoci, per gli adolescenti la musica è un tessuto molto più importante che per noi Matusalemme, insomma, per intendersi. Poi c'è chi resta bambino, di 16 anni deve avere un forte tessuto musicale. No, ti stavo dicendo, poi ci sono quelli che restano bambini e la musica la continuano a sentire ininterrottamente, sì, come il nostro caso. No, ma non è questione di bambini, è questione che quello che ascolti da adolescente ti rimane dentro. Sì, sicuramente. Anche non so te, anch'io alla fine per quanto sia ascoltiamo, ma quello che ci ha segnato rimangono i tessuti della nostra adolescenza. Ma al di là di noi è fondamentale appunto questa cosa, proprio per costruire bene un film. In questo caso non è accessoria, è esattamente pertinente al protagonista, insomma, alla protagonista Giulio, per intendersi. Senti, per rispetto appunto a questo tessuto, Davide prima ricordava che la tendenza è un po' folk country per qualche sì. verso, no? Sì, sì, assolutamente. E poi comunque anche le canzoni, tutto lì. Sostanzialmente un personaggio troppo spinto su cose troppo esagerate avrebbe forse perso anche di credibilità. Qui stiamo parlando di una ragazzina. Stiamo parlando di una ragazzina appunto che ascolta quella musica, che comunque è imbevuta di quel folk, di quei country che comunque si rimangono tra virgolette antropologia musicale degli Stati Uniti, in qualche sì, modo si sì. andava veramente nel sottotraccia, nell'America più bassa. Noi non stiamo a New York, per intendersi, siamo, non mi ricordo dove è ambientato, sì, ma è ambientato sicuramente non a New York e non a Los Angeles. Sì, non è. Però... girato tra il Canada e se non sbaglio tra in Canada e in adesso non ricordo, però quelle cose tipo Fargo, Minnesota. Sì, mi pare di sì, però mi ricordo questa cosa del Canada, non so perché. Perché Canada sei... perché lui è canadese. Sì, anche lei è canadese. Sì. È il nome degli Stati, esatto. Il regista e l'attrice sono canadesi. Sono canadesi. Però mi ricordo che c'erano delle location in Canada, però potrei sbagliarmi. E comunque appunto non sono luoghi dove appunto lì sono luoghi dove è nato un certo tipo di musica, e in qualche modo chi nasce lì bene o male ne rimane, come tra virgolette, condizionato, li ascolterà sempre, hai capito? Sì. Questo è molto importante, secondo me. Precisazione, tutto ambientato in Minnesota. In Minnesota, bene, abbiamo stabilito che era il Minnesota. Come Fargo. Esatto. Albert, di questo assemblaggio musicale, secondo te è riuscito? Come lo senti questo sound? Lo sento bene, nel senso che è quell'invisibile che ci sta. Se ci fate caso, non ci sono mai scene particolarmente cruente, c'è sì. sempre questa nota anche di commedia leggera che legge tutto con una certa serenità, bene o male, nel bene e nel male si riesce ad andare avanti, e infatti lo sento bene proprio perché fluisce, è qualcosa che accompagna, è una cosa melodica, è una che accompagna tutto il film senza essere invasivo, ma attenzione, pur non essendo invasivo è un protagonista strutturale di tutta la costruzione filmica, proprio perché definisce il personaggio e ne definisce anche gli umori e le scelte, per intendersi. Sì, sì, sì. Senti Albert, noi ci piace sempre chiedere ai nostri ospiti e sì. poi in più in particolare a te, visto che hai curato questo festival, se ci sono dei film a partire dall'ultima stagione, ma comunque più in generale, di cui hai amato particolarmente la colonna sonora e che magari ti piacerebbe e fosse dedicata a una puntata, perché noi prendiamo sempre spunti anche dai nostri ospiti. Allora ti sparo uno che uscì due anni fa sì, sì. che è molto trasversale. Avrei potuto farlo in un festival, l'ho fatto in un altro, avrei voluto farlo in uno dei festival che faccio, poi lo feci in un altro. L'ultimo film di Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Ah, sì, sì, sì, sì. Beh, sì, Jarmusch è un intenditore di musica, insomma. Quello veramente è il capolavoro perfetto su quello che potremmo intendere come rapporto cinema e musica negli ultimi anni. A parte essere una storia di vampiri bellissima, una sì, storia d'amore, sì. ma c'è anche appunto, sono musicisti e la musica è strutturalmente un elemento non banale, anzi cogente e importante. Sì, sì, sì, con sì. questo musicista che va dall'aver lavorato con Chopin fino al garage di Detroit. Questo sì. è eccezionale, secondo me, come se gli dedicato una puntata ritorno volentieri. Beh, gli sguardi qui in studio sono tutti a favore, quindi sicuramente lo segniamo. Stai pronto? Adesso ho sparato il primo che mi era venuto in mente, ovviamente. Hai sparato bene. Albert, io ti ringrazio, grazie. È stato un piacere, speriamo di risentirci grazie presto. A voi. Ciao, grazie un abbraccio. A voi. Ciao. Arrivederci. E questi erano i Sonic Youth con un brano come... Ops, è caduto il microfono, mannaggia, che è un casino. Sì, oggi cade tutto. E il brano si chiama Superstar, e di cui è nota la versione dei Carpenters, ma in realtà era un brano di un gruppo che si chiama Delaney and Bonnie, che originariamente il nome era Groupie, perché parla proprio di una groupie, e però è molto triste, parla anche di solitudine questo brano. E questa, come vi ho già detto, è una versione rumorista dei Sonic Youth, con sonorità così proprio diverse dalle loro, eh? Dalle loro. E invece la versione forse un po' più bella, quella famosa, è quella dei Carpenters. Sì, e dei Carpenters, vabbè, a parte citare la loro biografia, che insomma forse è anche conosciuta, mi piaceva ricordare il fatto che cercando appunto notizie su questo brano mi sono imbattuta in Todd Haynes, che è una regista di cui abbiamo già parlato da queste frequenze, e perché ha fatto un cortometraggio proprio dal titolo Superstar, The Karen Carpenter Story, ed era il suo film di esordio, e narrava proprio la storia di questa cantante Karen Carpenter, che morì in seguito alla terribile debilitazione causata dall'anoressia di cui era malata, dopo 20 anni di carriera che la portarono alla Casa Bianca, e insomma ebbe grandissimi successi, però invece fu molto sofferente, e pare che questo cortometraggio, che io non ho visto, è considerato uno dei 50 cult movie di sempre, e quindi insomma vedetevelo se avete la possibilità e scoprite qualcosa di più su questa fantastica cantante. Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. E avete ascoltato un altro brano della colonna sonora di Juno, e questi erano i Mott Hoople, il brano All the Young Dudes, che originariamente è stato scritto da David Bowie, e David Bowie gliel'ha proprio dato, si conoscevano e gli ha dato questo brano, ed è stato grazie a questo brano che forse la band poi non si è sciolta, nel senso la rimessi insieme, l'hanno pubblicato, è uscita, ha avuto anche successo. Sì, e David Bowie racconta in un'intervista che questa canzone lui l'ha scritta mentre insomma era impegnato con tutta il baraccone Ziggy Stardust, baraccone tra virgolette, insomma baraccone si fa per dire, però insomma racconta in un'intervista che mentre appunto lui spiegava durante Ziggy Stardust tutte le sue teorie sull'apocalisse, in questa canzone All the Young Dudes, Dudes è una canzone proprio incentrata su queste notizie, cioè sul fatto che stesse avvenendo l'apocalisse, non fosse per niente un inno per i giovani come invece era stato considerato, e inoltre è stato letto anche come una sorta di manifesto per la liberazione gay, un colpo un po' alla mentalità bigotta secondo la quale l'omosessualità a quel tempo non avrebbe nessun significato, non aveva nessun significato al di là dell'atto sessuale in sé, insomma, speculazioni. Abbiamo ascoltato il brano Sea of Love di Cat Power. Cat Power è lo pseudonimo scelto dall'americana Charlene Mary Chan Marshall, è una cantautrice dark folk con acustiche per lo più malinconiche, appunto in linea con la colonna sonora di questo film, brani arrangiati solo con piano, chitarra. Comunque arriva negli anni 90 a Manhattan, dove conosce il batterista di Sonic Youth e il chitarrista dei Two Dollar Guitars, e da lì comincia la sua carriera. E lei è famosa perché è tremendamente timida, e questa timidezza le crea delle difficoltà durante le esibizioni dal vivo. In ogni caso, comunque collabora con moltissimi musicisti, con David Grohl dei Nirvana, e Warren Ellis dei Dirty Three, Eddie Vedder. Sto leggendo qui una cosa che ha trovato Ottavia, una cosa che ha detto lei. Così tirei tutte le colpe, visto che dice. No, invece è una bella citazione sua, che dice, gli hanno chiesto: ma perché sei così spaventata? Lei dice della notorietà, della celebrità. Lei dice: non sono spaventata, semplicemente non la voglio e non mi piace. ti ricordi le persone popolari al liceo? Ecco, generalmente erano le più crudeli e lo stesso meccanismo lo si trova nella società. La ricerca della popolarità, il tentativo di ottenere soldi, potere e avanzamento sociale è tutta una bugia e io non la voglio nella mia vita. Yeah. Sì, e lei ha pubblicato vari album, mi pare 9, tra cui, di cui 2 o 3 proprio di cover molto belle, e forse i nostri compagni di Attica Blues che ci seguono forse l'hanno anche suonata, perché insomma ha reinterpretato dei brani di Aretha Franklin e di altre star, insomma, della musica soul, e quindi insomma forse la conosceranno, poi dopo magari glielo chiediamo. E invece di questo film volevo dire soltanto che la cosa che mi ha colpito è un film che mi è piaciuto, insomma mi è piaciuto nella sua leggerezza, nel suo tipo di scrittura su dei temi così importanti, anche complicati, anche questa figura di questa giovane adolescente che in fondo non esiste neanche, perché insomma è una cosa totalmente surreale tutto quello che succede, ma mi è piaciuto come la sceneggiatrice ha affrontato i caratteri maschili male, li ha affrontati male, perché è un film femminista sostanzialmente, secondo me, perché tutti i personaggi maschili sono tutti stupidi, sono proprio raccontati in modo proprio come degli stupidi, dei bambini non cresciuti. Insomma, mi è piaciuto questa sua posizione femminista, e si sente proprio con un film scritto da una donna, una volta tanto una donna che scrive un film e che tira fuori quello che c'è dentro di lei, è bello. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. Don't see what anyone can see in anyone else. Here is a church and here is a steeple. We sure are cute for 2 ugly people. Don't see what anyone can see in anyone else. But those have shiny, happy fits of rage. I want more fans, you want more stage. Don't see what anyone can see in anyone else. But I'm always trying to keep it real. Now I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. But kiss you on the brain in the shadow of the train. I kiss you all starry-eyed, my body swings from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But the pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone can see in anyone else. But you do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Questo brano si chiama Anyone Else But You, ed è una canzone d'amore fra due amanti che si dedicano, cioè che si dedicano queste parole d'amore, e è cantata dai due, da Juno, la protagonista, e dal suo amico e dal suo amante. Ricordiamo Ellen Page e Michael Cera sono i due protagonisti di questo film, giovanissimi quando l'hanno girato. E il brano originariamente dei Moldy Peaches, del quale la cantante che vi ho detto prima, che abbiamo ascoltato, che si chiama Camilla Dawson, era una delle fondatrici. È un gruppo newyorkese nato nel 94 e spesso associati al movimento anti-folk, qui leggo ma non so bene che cosa vuol dire, e hanno fatto un solo album. E siamo arrivati alla fine, Federico, è vero o no? Sono le 4. Attica Blues è arrivata finalmente. Per me, che mi metterò le cuffie e l'ascolterò molto con grande piacere come tutti i giovedì, poi seguirà La Schiena del Sol. Voglio ricordare 3 appuntamenti: il primo alle 17 a Ponte Garibaldi per ricordare Giorgiana Amasi, un omicidio di stato ad opera delle forze dell'ordine che non hanno smesso di perpetrare omicidi in questo paese. Vi ricordo anche la riunione che verrà a seguire stasera a Laurentino 38 allo Squat sui processi relativi ai cortei del 1 maggio a Milano e del 24 gennaio a Cremona, dopo il quale seguirà una cena benefit, ricordo, presso lo Squat di Laurentino 38 via Giuliotti. E inoltre venerdì grande festa cumbiana, se si può dire così, a cura della Schiena del Sole al 360, musica, balli, e venite, perché quando c'è la cumbia non si può stare che bene, quindi partecipate. Vi ricordo le coordinate per sottoscrivere alla radio, che non vive di aria e che vive senza pubblicità dal 1977 e quindi ha bisogno di essere sostenuta da chi può, con le sue sottoscrizioni, per continuare a trasmettere da queste frequenze, con il conto corrente postale 61804001 intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Volci 56001 85 Roma. So che c'è anche un crowdfunding che potete trovare sul sito della radio, tutte quante le cose per parteciparvi. Potete fare anche una sottoscrizione con il PayPal attraverso sempre il sito della radio www.ondarossa.info. Io vi saluto, la Attica Blues sta per iniziare. A giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. I'm sticking with you, 'cause I'm made out of glue. Anything that you might do, I'm gonna do too. You held up a stagecoach in the rain. Into the stratosphere, soldiers fighting with the calm. But with you by my side, I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong. I'll do anything.